Fatto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Buongiorno e bentornati al podcast di Effetto Giorno. Io sono come sempre Simone Spezia, in diretta ci trovate tutti i giorni dalle 13 alle 14 e però in questo spazio di podcast, appunto, dato che normalmente nella trasmissione dedichiamo molto spazio alle notizie, non è che non lo facciamo qua, ma sappiamo che sono notizie in evoluzione, in particolare oggi quelle che riguardano il Quirinale, ci dedichiamo un po' di più all'approfondimento. Le notizie però, insomma, qualcuno ci ha anche scritto sulla nostra pagina Facebook a proposito di questo, www.facebook.com/effettogiorno, intanto ve lo ricordo, se volete andare cliccare vi piace, partecipare alle discussioni, ci ha detto però io Effetto Giorno me la scarico anche per sentire le notizie, non vi preoccupate, quelle non ce le dimentichiamo, ci troverete in questo podcast come sempre qualcosa in più. Nella fattispecie oggi una versione estesa dell'intervista che abbiamo realizzato col direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, con la quale abbiamo parlato di, tra l'altro, di un fatto importante che avviene tra poco, ossia questo è il primo anno del 730 precompilato, la dichiarazione dei redditi precompilata. Naturalmente ci sono molti timori tra i contribuenti su questo fronte, abbiamo chiesto all'Orlandi se si sente in grado di sedare, per così dire, questi timori, e poi abbiamo parlato anche del nuovo atteggiamento che si richiede all'Agenzia delle Entrate, si richiede che abbia l'Agenzia delle Entrate un atteggiamento un po' più gentile, per così dire, nei confronti dei contribuenti e come intende applicare tutto questo. Di questo parleremo tra poco. Naturalmente iniziamo e non possiamo fare altro, iniziamo dal Quirinale, posto che nel momento nel quale registriamo le cose sono in evoluzione, anche se progressivamente ci sembra che si stiano assestando. Che cosa è successo? È successo che nell'assemblea dei grandi elettori del Partito Democratico, perché si chiamano grandi elettori? Perché ci sono i deputati, ma ci sono anche rappresentanti degli enti locali, nell'assemblea dei grandi elettori del Partito Democratico Matteo Renzi ha portato la sua proposta è per Sergio Mattarella. Qual è il risultato? Il risultato è che l'Assemblea dei grandi elettori ha approvato all'unanimità la proposta di Matteo Renzi. Dall'altra parte c'è Forza Italia che considera tutto questo una sorta di rottura del patto del Nazareno, almeno alcuni esponenti di Forza Italia hanno detto che rappresenta una rottura del patto del Nazareno, sia quel patto tramite il quale Berlusconi e Renzi volevano portare a fondo insieme il processo di riforme, tanto quella della legge elettorale quanto quelle costituzionali. Vedremo come evolveranno le cose. Oggi la prima votazione, che sarà una votazione prevalentemente da scheda bianca, così come le prossime due, perché per le prime tre votazioni ci vuole una maggioranza qualificata, ossia due terzi di tutti i grandi elettori, mentre invece dalla quarta votazione, che sarà probabilmente quella che eleggerà il Presidente della Repubblica, salvo sorprese, dalla quarta votazione basta la maggioranza normale. Questo il quadro che comprende anche il Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle che oggi ha fatto le sue quirinarie. Il risultato è che ci sono due magistrati nel primo e nel terzo posto, si tratta di Imposimato da una parte, Di Matteo dall'altra, e in mezzo tra loro due un politico, Romano Prodi, che si è classificato secondo. Vedremo come andranno a finire naturalmente queste votazioni. Intanto vi vogliamo proporre un ritratto di Sergio Mattarella. Chi è? Ce lo racconta Alessandra Schepisi. Più volte ministro, vicepremier nel governo D'Alema, deputato per 25 anni e oggi giudice della Corte Costituzionale, Sergio Mattarella, siciliano, classe 1941, è figlio di Bernardo, politico di lungo corso della Democrazia Cristiana, ma soprattutto fratello di Pier Santi, assassinato dalla mafia il 6 gennaio 1980, mentre era presidente della Regione Sicilia. Da quella tragedia nasce la sua decisione di dedicarsi alla carriera politica, lui che avrebbe voluto fare il professore di diritto pubblico. È deputato dal 1983 al 2008, prima per la Democrazia Cristiana, poi per il Partito Popolare Italiano, infine per la Margherita. Nel 1989 diventa ministro della pubblica istruzione nel governo Andreotti, ma nel 1990 si dimette con altri quattro ministri della sinistra DC per protesta contro la legge Mammì, considerata un regalo a Berlusconi e al suo impero televisivo. Berlusconi, che quattro anni dopo andrà al governo grazie alla legge che da Mattarella prende il il nome, il Mattarellum, quell'incastro tra collegi uninominali e quote proporzionali. Dall'aprile 2008 esce dalla scena politica attiva concludendo il suo mandato parlamentare e il 5 ottobre 2011 viene eletto giudice della Corte Costituzionale. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Questo è il quadro per quanto riguarda il Quirinale, un quadro, come vi dicevamo, naturalmente ancora in evoluzione. Vogliamo passare alla cronaca, perché questa mattina c'è stata un'evoluzione importante su una vicenda che va avanti ormai da un anno. Si parla di una donna che era scomparsa esattamente un anno fa, il cui corpo si pensava che fosse scappata, ci sono state mille ipotesi. Il corpo è stato ritrovato alcuni mesi più avanti, ebbene, oggi è stato arrestato il marito. Le accuse sono quelle di omicidio volontario premeditato e occultamento di cadavere. È stato arrestato questa mattina Michele Buoninconti, il marito di Elena Ceste, la donna scomparsa da casa un anno fa, il 24 gennaio del 2014, e poi trovata cadavere 9 mesi dopo, il 18 ottobre scorso, in un canale poco distante dalla sua abitazione di Costigliole d'Asti, dove la donna viveva con il marito, che fa il vigile del fuoco, e i loro 4 figli piccoli. A denunciarne la scomparsa era stato proprio lui, a ritrovare il cadavere per caso gli addetti ad alcuni lavori di scavo. Indagato dopo il ritrovamento, il racconto dell'uomo presentava da sempre molte incongruenze. Secondo gli inquirenti, l'omicidio sarebbe avvenuto il giorno della scomparsa. Ieri era stata depositata in procura la perizia autoptica eseguita sul corpo della donna, di cui evidentemente la svolta alle indagini durate un anno. Dall'ipotesi della fuga con accertamento fino a Tenerife, a quella del suicidio, per arrivare poi alla pista dell'omicidio e ai sospetti sul marito. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il Sole 24 Ore. Quindi, se si confermasse che l'assassino è stato il marito, e se si confermasse, naturalmente questo dovrà avvenire con vari gradi di giudizio, si tratterebbe di un altro caso di violenza sulle donne, di quello che qualcuno definisce femminicidio. E a proposito di violenza sulle donne, c'è un'altra vicenda della quale ci vogliamo occupare oggi, ed è quella del cantante Massimo Di Cataldo. Ricorderete che circa un anno fa la sua compagna, la persona con la quale stava insieme, pubblicò su Facebook delle foto nelle quali sembrava che avesse dei lividi, foto che naturalmente hanno fatto il giro della rete, sono state stracommentate. Massimo Di Cataldo è stato esposto al pubblico ludibrio. Che cosa è successo un anno dopo? È successo che si è rivelato innanzitutto che il procurato aborto che la donna aveva denunciato non c'è stato, e in secondo luogo che la procura ieri ha chiesto l'archiviazione anche per l'accusa di percosse, una decisione contro la quale la donna vuole ricorrere, e mentre invece Di Cataldo minaccia la denuncia per calunnia, ha sempre dichiarato di essere innocente. Sentiamo. La richiesta di archiviazione arriva quasi 2 anni dopo, dopo le foto su Facebook col viso insanguinato, dopo lo sdegno e il clamore, e se il GIP la accoglierà, per il cantante sarà, per dirla con le sue parole, la fine di un incubo. Massimo Di Cataldo non picchiò l'ex compagna, secondo la procura di Roma, che vuole ora far cadere anche le accuse di maltrattamenti a carico dell'artista dopo quella di procurato aborto, per cui è stato già scagionato. Mi ha rovinato la vita e la carriera, protesta il cantante, che racconta di essere stato ostracizzato da molti contesti pubblici proprio per lo scandalo provocato dalla pubblicazione da parte della ex Anna Laura Millacci delle foto su Facebook col viso rigato di sangue. Vogliamo sia accusata per calunnia, la richiesta ora di Daniele Bocciolini, avvocato di Di Cataldo, che contesta proprio l'autenticità delle foto. Le macchie di sangue compaiono un'ora e mezza dopo l'ora quantomeno della riferita aggressione. Non c'è una compatibilità con le riferite percosse. Il mio assistito è stato danneggiato gravemente da quelle foto e lui ad oggi non lavora, c'è una specie di veto, è giusto che le donne denuncino, dall'altra parte però bisogna anche valutare e verificare la veridicità e la fondatezza delle accuse. La situazione dunque potrebbe addirittura ribaltarsi. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Siamo ad una pagina di esteri piuttosto ampia, che vogliamo iniziare parlando di terrorismo internazionale, c'è ancora la questione dell'ISIS, l'ostaggio giapponese è ancora nelle mani degli jihadisti e in un nuovo messaggio audio lo Stato Islamico dà tempo alle autorità di Amman fino al tramonto di oggi ora di Mosul, che dovrebbe essere oggi nel primo pomeriggio, per scambiare la terrorista irachena con il pilota giordano. Naturalmente nel momento nel quale stiamo registrando potrebbe essere avvenuto qualcosa, potrebbe avvenire qualcosa a breve, però il servizio della nostra Adriana Fracchia ci aiuta anche a fare un punto. Nuovo ultimatum dell'ISIS. In un ennesimo messaggio audio, come riporta la CNN, si dà tempo alle autorità di Amman fino al tramonto di oggi, ora di Mosul, per liberare la terrorista Sajid al-Rishawi e portarla al confine con la Turchia. Se questo non avverrà, come dice nella registrazione l'ostaggio giapponese Kenji Goto, verrà immediatamente ucciso il pilota giordano Muat al-Kasasbeh, anche lui sequestrato dai jihadisti. L'autenticità di questo messaggio deve essere ancora verificata, ma si tratta di una nuova evoluzione della vicenda, dopo l'annuncio di ieri, che si è poi rivelato falso, della liberazione dei due ostaggi in cambio della jihadista irachena condannata a morte per complicità in un attacco suicida del 2005. Il messaggio audio è stato diffuso su un account Twitter legato all'organizzazione islamista ed è accompagnato dall'immagine fissa dell'ostaggio giapponese Goto. Il Giappone conta sull'aiuto della Giordania per liberare il suo reporter in uno scenario in rapida evoluzione. Ieri le autorità di Amman si sono intanto dette pronte a liberare la donna irachena in cambio del pilota, chiedendo però di avere prima delle prove che il militare giordano sia ancora in vita. Nel frattempo i corpi decapitati di tre uomini sono stati trovati in un villaggio del nord del Sinai in Egitto, dove è attivo un gruppo jihadista alleato dell'ISIS. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un altro fronte dall'estero è quello che tiene insieme le vicende economiche della Grecia con quello che vuole fare il nuovo governo anche sullo scenario internazionale. Oggi il governo incontrerà il presidente dell'Europarlamento, Martin Schulz, per evidentemente fare un punto sulla situazione, e nel frattempo c'è il primo appuntamento internazionale importante, ossia il vertice dei ministri degli esteri che devono decidere eventuali nuove sanzioni alla Russia. Ebbene, il nuovo governo greco si oppone alle nuove sanzioni alla Russia. Iniziamo però dal punto economico. Dopo il crollo in borsa, il peggioramento dei titoli di Stato e le ire di Berlino, il vice premier greco Yannis Dragassakis ha tentato di calmare le acque. Dialogo e non scontri e ricatti reciproci, ha detto al termine della riunione della squadra economica. Non vogliamo la rottura, ma nemmeno il proseguimento di una politica che conduce alla catastrofe. Pensiamo piuttosto alla liberazione dell'Europa dai greci, ai quali non dovrà più dare soldi. L'effetto non è stato quello sperato, però. I cambiamenti del nuovo governo non devono andare a discapito degli altri europei, ha risposto il vice cancelliere e ministro dell'economia tedesco Gabriel. I cittadini europei hanno il diritto di aspettarsi che i cambiamenti della politica greca non vengano fatti a loro spese. Per ora Dragassakis ha avuto poco riscontro anche a Bruxelles, da dove il presidente Juncker ha fatto sapere che una riduzione del valore di rimborso del debito della Grecia è esclusa e che al massimo sono possibili degli aggiustamenti, ma senza alterare la sostanza di quello che c'è già. Con uno spread vicino ai 1.000 punti, le uniche soddisfazioni di oggi arrivano dalla borsa, che tenta il rimbalzo, ma dopo il -19% delle ultime tre sedute, un tentativo è poca cosa. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il tema delle sanzioni, dunque, e del fatto che, come si diceva, il governo greco si oppone esplicitamente al varo di nuove sanzioni nei confronti della Russia. Di questo, ossia delle posizioni europee in campo, ma anche delle posizioni russe in queste ore, con un Vladimir Putin che appare sempre più spesso in video, abbiamo parlato con il nostro Gigi Donelli. È sicuramente l'elemento di novità nelle ultime due giornate di questo incontro convocato con urgenza da Federica Mogherini, che però insomma appare sempre più destinato a concludersi nel segno della mediazione. La Grecia contraria, ma ripeto, non è solo la Grecia, c'è l'Ungheria che addirittura ha esplicitato una opposizione interna alla linea cosiddetta antirussa, così viene definita ormai invece a Oriente, invitando tra l'altro il presidente Putin il prossimo 16 febbraio a Budapest Budapest, sarà la prima visita in spazio, prima visita ufficiale in spazio europeo di Putin dopo il doppio grado di sanzioni che appunto colpisce Mosca. Per cui una situazione, ricordiamolo, che vede con grandissima prudenza anche paesi come la Germania e l'Italia stessa, quindi che in tutte le occasioni hanno gettato acqua sul fuoco a quella linea invece molto più azionista rispetto alle sanzioni che viene dagli Stati Uniti e dalla Polonia all'interno del sistema europeo. Questo per quanto riguarda l'Europa. Dall'altro lato invece quello della Russia, Gigi. E la Russia, io vi segnalo appunto in questi giorni c'è un Vladimir Putin che si potrebbe quasi dire vive in televisione. Ancora adesso ha appena concluso un intervento di oltre un'ora in diretta televisiva sul primo canale appunto russo. Oggi ha parlato di economia e di best practices. Ieri aveva detto che come dire, la Russia deve spendere al meglio i propri soldi, non deve sprecarli. Insomma, la crisi, dice, sarà superata perché sicuramente la Russia è forte e perché la Russia è capace di resistere a quella che in diverse occasioni lui ormai evoca come una forma di tentativo di accerchiamento da parte, soprattutto, dice, degli Stati Uniti. Su questo fronte vale la pena forse sottolineare che anche Mikhail Gorbaciov si è espresso, quindi l'ex presidente nonché premio Nobel, parla di una pericolosa deriva americana verso la guerra calda, dice. La guerra fredda, ha aggiunto stamattina, è già in corso. Gli Stati Uniti stanno spingendo la situazione in una giungla in cui loro per primi hanno perso la strada. Insomma, un ulteriore livello di preoccupazione, mentre anche questa mattina il bilancio dei morti nel sud-est dell'Ucraina aumenta. 5 soldati uccisi, 29 feriti solo nei combattimenti della mattina. Abbiamo parlato di Grecia, ci sono altre notizie economiche importanti nella giornata di oggi. Innanzitutto una serie di dati positivi che arrivano dall'Italia e che riguardano tanto la fiducia dei consumatori, che è ai massimi da 6 mesi, a 104 punti dai 99,9 precedenti, il dato di gennaio 2015, quanto la fiducia delle imprese, che è a 91,6 da 87,6, è il livello più alto dal settembre 2011. Il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, parla di timidi segnali di ripresa che forse si intravedono anche nel mercato immobiliare. Nel terzo trimestre del 2014 ha ripreso a crescere, segnando per le compravendite un rialzo del 3,7% su base annua. Sono dati sempre dell'Istat che segnala che nello stesso periodo si registra un'impennata del 13,9% per mutui, finanziamenti e altre obbligazioni con ipoteca. Ad aggiungersi a questi dati ci sono le nuove aste di titoli di Stato, che sono andate bene anche queste. Quella del decennale fa segnare un rendimento all'1,62%, che è il minimo storico. Di contro ci sono altri dati ancora, che sono quelli sulle retribuzioni, fanno segnare un più 1,3% e siamo come rialzo ai minimi dal 1982. Sempre a proposito di economia, c'è un'altra vicenda che si sta animando in queste ore ed è quella che riguarda l'Ilva. Con un decreto in mezzo al guado, i lavori parlamentari naturalmente sono fermi in queste ore perché si sta lavorando sul nuovo Presidente della Repubblica, si attendono gli emendamenti. Le grandi preoccupazioni arrivano in queste ore dai fornitori dell'Ilva, che è tempo che non vengono pagati e ai quali viene richiesto in queste ore uno sforzo supplementare che però forse non si sentono di fare. Noi abbiamo sentito Thomas Baumgartner, che è il presidente dell'ANITA. L'ANITA è l'associazione delle imprese dell'autotrasporto collegate a Confindustria, perché molti crediti sono, come dire, collocati proprio in quel settore. Sentiamo cosa ci ha raccontato. Abbiamo chiesto questo incontro con i commissari. Noi vogliamo che veniamo garantiti dallo Stato affinché i nostri crediti vengano pagati. Noi come trasportatori abbiamo garantito sempre alla Ilva di poter continuare a produrre e portare i loro prodotti, l'acciaio da destinazione dei loro clienti, e mentre quando l'Ilva era ancora privata venivamo pagati puntualmente, da quando lo Stato è subentrato non riceviamo più pagati i nostri crediti. Ci sono i trasportatori che hanno esposizioni di parecchi milioni di euro e il settore è in subbuglio. Quanti crediti vanta complessivamente il settore nei confronti di Ilva? Ma noi come nostri associati della NIT vantano oltre 10 milioni di pagamenti non fatti negli ultimi mesi. Tutto il settore senz'altro sono decine e decine milioni di più. Senz'altro i trasportatori non hanno la forza a reggere mancanze, cioè, di pagamento di questi crediti, ci sarebbe una chiusura di tante aziende, ma non solo chiusura, ovviamente anche di perdere il posto di lavoro non da poco. E nei giorni scorsi si è parlato anche della possibilità, Baumgartner, di un vero e proprio blocco da parte vostro, da parte di alcuni gruppi di autotrasportatori. Noi come associazione non incentiviamo questi minacce, però ovviamente i trasportatori, se non hanno garanzie precise prese dal governo che ci garantisce sia il pagamento dei crediti pregressi ma anche i pagamenti di futuri crediti che dovrebbero nascere per eventuali trasporti che andiamo ancora a fare, non possiamo più trasportare l'acciaio a una destinazione. Questo di fatto sarebbe un blocco dell'impianto. E tra un attimo, sempre in tema di economia, vi farò sentire l'intervista che abbiamo realizzato con il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, con la quale abbiamo parlato, come si diceva all'inizio, di tanti argomenti, tra cui il 7.30 precompilato. E però prima chiudiamo con tutte le altre notizie, perché insomma l'intervista è lunga e vi lasciamo il tempo di sentirvela. Innanzitutto con lo sport. Lo sport ci parla del calcio, naturalmente, lo sapete che Mattia Destro ha accettato il trasferimento dalla Roma al Milan in prestito con diritto di riscatto da esercitarsi a giugno. Questo è quello che confermano fonti rossonere. Poi la conferma è arrivata dallo stesso Mattia Destro, quindi è un prestito. E poi l'altra notizia riguarda il tennis. Fabio Fognini e Simone Bolelli si sono qualificati per la finale degli Australian Open battendo per 6-4, 3-6, 6-3 la coppia formata dall'olandese Roger e dal romeno Tecau. È la prima volta che due azzurri raggiungono la finale di un torneo slam dal 59, quando vi riuscirono a Parigi Pietrangeli e Sirola. Abbiamo tracciato un ritratto di Fognini e Bolelli. L'uno, 27 anni, ligure, fidanzato con la bella e brava collega Flavia Pennetta, è genio e sregolatezza del nostro tennis. L'altro, 29 anni, bolognese, è il classico azzurro di talento, ma che con la racchetta in mano avrebbe potuto fare anche di più. Strana coppia davvero quella formata da Fabio Fognini e Simone Bolelli, ma il doppio funziona e come, se è vero che era dal 1959 dai leggendari Pietrangeli Sirola che vinsero a Parigi che due italiani non arrivavano in finale in uno slam. Un pezzo di storia, quindi, comunque vada, è già scritto, spiegano Simone e Fabio. Speriamo di riscrivere la storia, di entrare vincendo il torneo. Siamo contenti, ecco, siamo qui che ci vogliamo godere questo momento. Che la coppia fosse azzeccata, del resto Fognini-Bolelli lo avevano già dimostrato, viste le semifinali raggiunte agli US Open nel 2011 e proprio in Australia nel 2013. Ora in finale contro i francesi Herbert Mahut serviranno nervi saldi, quelli che Fognini, noto spaccaracchette, spesso non ha, quelli che Bolelli ha dimostrato di avere, uscendo pulito dallo scandalo scommesse che ha invece coinvolto altri big azzurri. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Infine vi parliamo di teatro, perché arriva questa sera, 29 gennaio, la prima di uno spettacolo dedicato alla famiglia Lehman, dalla nascita, dalla partenza, dal loro arrivo negli Stati Uniti da un paesino della Germania fino ad arrivare naturalmente al fallimento, forse il più grande fallimento della storia, quantomeno della storia bancaria recente. Viene raccontato al Piccolo Teatro di Milano con la regia di Luca Ronconi, uno spettacolo, ed è uno spettacolo scritto da Stefano Massini. Ci sono Fabrizio Gifuni, Massimo Popolizio, Massimo De Francovic. Vi segnalo tra l'altro che il 6 di febbraio alle 17 nella sede della Borsa Italiana. Ci sarà un evento in collaborazione tra il Piccolo Teatro e Radio 24, nel quale ci sarà appunto lo stesso Luca Ronconi, ci sarà Stefano Massini che è l'autore, ci sarà il nostro vice direttore Sebastiano Barisoni e ai voi vi tocco io come moderatore. Ve lo ricordo, il 6 febbraio alle 17, e se volete prenotarvi un posto, venire a vedere che cosa succede, ci saranno anche attori che racconteranno questo spettacolo, lo potete fare sul nostro sito www.radio24.it. Quindi questa è la prima che ci sarà stasera. Noi, prima di chiudere, prima di salutarci, ci sentiamo l'intervista che abbiamo realizzato con la direttrice dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi. Abbiamo parlato appunto di 7.30, di rientro dei capitali, di evasione fiscale e soprattutto di quello che ci ha angustiato un po' tutti negli ultimi anni e soprattutto negli anni di crisi, ossia il rapporto con i contribuenti. Ma partiamo dal 7.30. Se il contribuente avesse paura di approcciarsi a un nuovo sistema, può anche mantenere la vecchia strada, non nessuno glielo impedisce, ma in realtà vorrei togliere questa paura, perché il 7.30 è una proposta precompilata, è una proposta di dichiarazione, quindi sul cassetto fiscale di ciascuno dei contribuenti che chiederanno la password per accedere, o per quelli che già ce l'hanno, sono oltre 4 milioni, troveranno una proposta di dichiarazione che in questo primo anno, essendo una fase sperimentale, contiene molti dati, ma per alcuni non tutti. Fondamentalmente ciò che manca di significativo per buona parte degli italiani sono le spese mediche, che speriamo di poter inserire già dall'anno prossimo. Se il contribuente ritiene che quella dichiarazione sia corretta, non fa che confermarla, la invia e ha, come dire, adempiuto a tutti i suoi obblighi, nessuno gli chiederà altro se non ovviamente quello del pagare. Mentre se vuole integrarlo o ha bisogno di capire, può rivolgersi, come sempre ha fatto, perché il 7.30 si fa con i sostituti d'imposta, con gli intermediari fiscali abilitati, fondamentalmente i CAF, al proprio CAF. La rivoluzione in questo caso è che una volta che il contribuente ha presentato la propria dichiarazione, l'ha fatta compilare e vistare dall'intermediario, non avrà alcuna richiesta di chiarimenti o di informazioni, o quindi nessun controllo di tipo formale, se non, continuo a ripetere, quello per i versamenti, che è ovvio, da parte dell'amministrazione finanziaria. Quindi è una rivoluzione per tutti, perché nessuno avrà più obbligo di conservazione dei documenti, di presentazione dei documenti, e soprattutto non risponderà più di eventuali errori. Senta, dal punto di vista dei tempi ci siamo? Sì, stiamo lavorando veramente con tempi strettissimi, soprattutto sulla costruzione e la pulizia del dato, però siamo, se tutti faranno la loro parte, perché ancora i cosiddetti CUD, come dicevamo una volta, o CU come li chiamiamo ora, ovviamente sono in preparazione e arriveranno all'amministrazione finanziaria il 7 marzo, quindi la grande prova è l'arrivo delle dichiarazioni, quindi delle certificazioni del lavoro, e questo richiede uno sforzo comune e collettivo da parte dell'amministrazione, ma anche dei professionisti che di questo si occupano. Quindi quello sarà il vero banco di prova il 7 marzo. Comunque per il resto è tutto pronto. Naturalmente l'incrocio delle banche dati al momento funziona, insomma dovrebbe funzionare. Funziona, sì, certamente, stiamo parlando di dati che noi abbiamo stiamo incrociando, come si dice, stiamo facendo i batch, come si dice in gergo tecnico, e che saranno inseriti. Cioè, già stato già un grosso lavoro a monte. Senta, dal 2016 poi ci saranno passi ulteriori, certo, su questo fronte. Ci diceva le spese mediche, poi altro, no? Sì, noi cercheremo di inserire fondamentalmente i dati delle spese mediche, perché sono quelli essenziali, sono quelli che la maggior parte. Altri tipi meno rilevanti di deduzioni o detrazioni che ancora mancano all'appello, il passo definitivo speriamo di poterlo fare nell'anno ancora successivo. Credo che 3 anni per una rivoluzione di questo genere complessiva siano un tempo congruo. Ci sono paesi che stanno lavorando su questo da oltre 10 anni. Per quanto riguarda invece l'altro tema, naturalmente, di queste settimane, l'altro grande tema di queste settimane, ossia il rientro dei capitali, quello che abbiamo imparato a chiamare con un termine inglese voluntary disclosure, vorrei capire come stanno andando le cose. E da quel che ho capito, già domani ci saranno i moduli pronti? Sì, io spero domani di poter pubblicare sul sito, perché la bozza è pronta, devo solo finire di leggerla, di fare le ultime correzioni, lo farò oggi, e quindi domattina saranno pubblicati, e quindi con le istruzioni ovviamente, e quindi inizierà fondamentalmente in modo formale l'operazione voluntary disclosure. E i segnali come sono? Buoni? Ma ci sono molte, le condizioni sono tali per cui si ritiene ci sarà una grossa adesione. D'altra parte il muro del segreto bancario è caduto soprattutto per tanti paesi che fino a qualche tempo fa mantenevano ancora questo segreto e non aderivano ai trattati internazionali. Come tutti sanno, la Svizzera ha firmato, quindi noi abbiamo lo scambio automatico ed è il paese che principalmente interessa agli italiani, ma ce ne sono stati altri come San Marino l'anno scorso, insomma come altri che stanno lavorando con noi, e poi c'è una pressione internazionale fortissima su questi paesi. Quindi credo che questo sia un atto fondamentalmente di compliance, perché è un modo con cui lo Stato italiano, come poi hanno fatto tutti gli altri stati, sta dicendo: se tu, appunto, si dice voluntary disclosure, copiando un termine che altri paesi hanno già attuato, stanno attuando in questo momento, se il cittadino è, come dire, compliant, cioè viene veramente a portare tutta la sua documentazione e esibisce la documentazione necessaria a ricostruire la sua esatta posizione fiscale, dovrà pagare, sia chiaro, le imposte, interessi, ma avrà delle sanzioni ridotte, questo è il vantaggio, però rientrerà in un circolo di trasparenza che è quello che serve oggi in questo paese. Questo appunto per quanto riguarda il rientro dei capitali. A livello più generale c'è stata un'indicazione anche politica, se vogliamo, nel senso che il Presidente del Consiglio Renzi ha detto chiaramente che vuole un fisco che diventi più simile ad un consulente, no, dei cittadini, e anche lei ha dato segnali in questo senso fin dall'inizio del suo mandato. Io vorrei capire come intendete agire, perché questo è stato un nodo centrale soprattutto negli ultimi anni, in questi anni di crisi. Tra i nostri ascoltatori ci sono tantissimi imprenditori, piccoli imprenditori, professionisti che hanno avuto fior di problemi da questo punto di vista, proprio nel rapporto con l'amministrazione fiscale. Io credo che ci siano le condizioni perché questo rapporto migliori, e le condizioni sono come sempre passano in questo paese da delle norme, perché, e questo lo dico con estrema chiarezza, noi non è che abbiamo discrezionalità nell'applicazione delle norme o nell'applicazione delle sanzioni o dei metodi. Lei dice, no, non siamo cattivi, è che le norme ci dipingono così. No, io non dico né cattivi, poi la valutazione viene fatta perché si dà sempre rilevanza a chi strilla in questo paese. Io ho moltissime anche attestazioni, anche di semplici cittadini, di fiducia e di rispetto per quello che i miei colleghi ogni giorno fanno. Dovremmo in questo paese imparare un pochino tutti a valorizzare anche le cose positive e non solo quelle negative, perché questo ci sta distruggendo anche nel rapporto con gli altri paesi. Comunque io credo che uno dei problemi di questo paese sia la legislazione frammentaria, stratificata, complessa da attuare, e sia anche un sistema sanzionatorio molto rigido che non permette alcuna differenziazione fra inadempimenti lievi e gravi mancanze. In questo senso ci sono un mix di proposte o di norme già attuate, come il ravvedimento lungo da una parte, come alcuni principi che stanno nella legge delega e che dovrebbero diventare legge a breve, che aiuteranno moltissimo non solo i contribuenti ma anche noi in un'applicazione diversa del sistema. Io spero che questo avvenga. D'altra parte, lo dico con chiarezza, noi cerchiamo, e questa è la nostra mission, lo dico ai miei colleghi ogni giorno, di essere molto rigidi e molto duri nel contrasto all'evasione sostanziale, ai fatti gravi, alla frode, che in questo paese sono un problema per gli imprenditori. Guardi, io non vivo da un'altra parte, vivo in questo paese, parlo con le persone, e gli imprenditori sanno benissimo che perdono il lavoro non solo perché hanno problemi di livello di tassazione, ma anche perché ci sono soggetti che, approfittando di sistemi frodatori o di norme che hanno dei buchi che gli permettono di sfuggire, inquinano il mercato, tolgono il lavoro agli onesti e danneggiano l'intera collettività. Questo deve essere preso come elemento di coscienza da tutti. Se ragioniamo in questo senso, se ragioniamo insieme, e ne abbiamo bisogno proprio come cittadini, credo che possiamo cambiare non solo il rapporto, ma anche la percezione che gli altri hanno di noi, perché è uno dei nostri problemi nell'attrattività degli investimenti, dei soggetti. Occorre una spinta proprio di pensiero e anche di desiderio di sopravvivenza, mettiamola così, di tutti noi, che ci permetta di cambiare. Io sto cercando di dare disposizioni ai miei uffici perché interpretino appunto il loro ruolo nella misura migliore e più corretta possibile. Cerchiamo di semplificare gli adempimenti, questo ci aiuta la norma, ci aiutano anche alcune procedure, in modo che sia meno difficile adempiere i propri obblighi e quindi meno difficile sbagliare. Cerchiamo di differenziare nei limiti di cui la norma ci dà la possibilità, fra comportamenti meramente di necessità o di errore, rispetto a situazioni comportamenti fraudolenti o di evasione conclamata. Non è facile, è un sentiero molto stretto. Ci stiamo provando, cerchiamo anche di essere molto chiari. Calare tutto questo nelle vostre realtà territoriali è facile? Perché c'è anche quello di tema, no? Evidentemente, anche poi il front office è quello, è l'ufficio locale. Guardi, noi sicuramente, io ne sono assolutamente consapevole, ne sono anche orgogliosa, perché quella è la nostra forza. Noi siamo più di 40.000 soggetti e facciamo di tutto. La pubblica amministrazione, agenzie entrate, è un qualcosa di diverso e mi permetta di dire, secondo me, migliore di molte altre pubbliche amministrazioni, perché facciamo cose che la pubblica opinione anche conosce. Noi siamo quelli che fanno la fatturazione elettronica per la PA, la siamo di servizio agli altri. Noi siamo quelli che fanno il nodo dei pagamenti F24 per tutta la fiscalità italiana. Siamo quelli che fanno una serie di attività di servizio che non ci vengono mai riconosciute. È chiaro che non è facile lavorare. Noi stiamo dando direttive e stiamo cercando di monitorare e di adeguare i comportamenti. La stragrande maggioranza dei miei colleghi è persona attenta e molto precisa. Poi ci sono, come da tutte le parti, persone meno capaci o meno adatte anche a questo. Cercheremo appunto di agire anche sul nostro modo di lavorare. Credo che però debba esserci anche una serenità maggiore e una minore rabbia o paura quando ci si confronta col fisco. Questo muro di paura è quello che spesso fa creare problemi seri. Spero che questo muro cada e che le persone possano avvicinarsi a noi, ai nostri servizi, con serenità. È naturalmente un pezzo del vostro lavoro far sì che cada questo muro di paura, perché non è casuale il fatto che si sia generato. Io credo che il nostro lavoro sia fondamentalmente questo, perché, e non lo dico io, lo dicono studi scientifici a livello mondiale, maggiore è la compliance, cioè il rapporto di rispetto e di fiducia fra cittadino, però dico Stato, non solo amministrazione finanziaria, perché occorre una fiducia nelle istituzioni perché ci sia una trasparenza. Quindi credo che noi siamo un pezzo delle istituzioni, sicuramente. Voglio dire che siamo i migliori, ma siamo sicuramente fra i più efficienti, questo assolutamente provato. Però occorre che il cittadino si fidi delle proprie istituzioni e del proprio paese, perché ci sia una maggiore spontaneità e maggiore aderenza agli obblighi tributari, perché sono quelli fondamentali del patto sociale. Cioè, un paese è un paese perché si dividono le spese, gli impegni, si ha solidarietà. Vorrei ricordare a tutti che la nostra Costituzione, non voglio essere retorica, mette insieme gli obblighi fiscali con i diritti di solidarietà. Ed è una bellissima Costituzione. Noi non avremmo, se non ci fosse il principio di capacità contributiva e il principio di progressività dell'imposta, non attueremmo l'articolo 2 della Costituzione, che parla di un'Italia solidale, e quindi non faremmo l'eguaglianza sostanziale. Se qualcuno pensa che pagare le tasse sia una grande fatica, io sono d'accordo, perché è faticoso, è difficile in questo paese, è molto oneroso. Però va visto anche che senza quelle imposte non ci sarebbe niente di quello che oggi questo paese è. Dicono gli inglesi che c'è un diritto di cittadinanza, cioè coloro che pagano le tasse sono cittadini di una nazione. Forse non siamo ancora così consapevoli di essere parte di una nazione. L'ultima domanda che le voglio fare è un tema al quale ha accennato lei poco fa, ossia il controllo e recupero dell'evasione fiscale. È chiaro che siamo al 28 gennaio, quindi avere dei dati sul 2014 è ancora difficile, però avere un'idea di massima. Sono tendenzialmente più alti di quelli del 2013, il che dimostra la grande, come dire, efficienza, come dicevo prima, del nostro sistema, perché in un momento così complicato e così difficile anche da un punto di vista finanziario, quel pezzo di lotta all'evasione, quel pezzo, sottolineo, che è il recupero dell'evasione pregressa, è andato bene. I dati saranno disponibili a breve, comunque è andato molto bene. Tendenzialmente in linea o superiore? Superiore alle previsioni. Superiore alle previsioni, quindi io ringrazio naturalmente tutti i colleghi che hanno lavorato in maniera pesante, faticosa, però per noi quello è un pezzo. L'importante è la tenuta del gettito spontaneo, che c'è stata, perché fondamentalmente c'è stata, anche se, anzi c'è un recupero che anche quello in parte, secondo gli studi, è ascrivibile all'azione delle agenzie fiscali, perché poi noi siamo una, siamo due, ognuna impegnata in un campo diverso, quindi il lavoro è stato fatto. Siamo soddisfatti? No, dovremmo fare molto di più, però abbiamo fatto molto lavoro. Noi recuperiamo mediamente più degli altri paesi. Il problema è evitare che l'evasione avvenga, non recuperarla. Questo è il mio compito. Ed è veramente tutto per il podcast di oggi di Effetto Giorno. Io vi ringrazio come sempre per l'ascolto, per averlo scaricato. Fate girare la voce, naturalmente, se vi è piaciuto. Iscrivetevi, ci sono i metodi per farlo, i link ai file XML che trovate naturalmente sul nostro sito www.radio24.it oppure via iTunes, segnalatelo in giro, naturalmente se vi è piaciuto. Se avete idee, osservazioni, tutto quello che volete, effetto giorno @radio24.it, mi trovate su Twitter, Simone Spezia, si scrive con la T, Simone Spezia, oppure c'era anche la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno. A domani con la trasmissione alle 13 e come sempre nel primo pomeriggio con il podcast. Buona giornata.